sbaglio quasi 8 e 32 minuti in scena per questo segmento di format dedicato al teatro, la rassegna Agora, arrivata all'ottava edizione stagione 2023-2024. Come ben sapete, i luoghi sono legati alla nostra pianura. Siamo a San Giorgio di Piano, la giornata sarà per domani, sabato 21 ottobre alle ore 21. Margherita Hack, Stella tra le stelle. Federico Taddia ne ha curato la narrazione e non solo, ma sentiremo anche altri protagonisti nell'anticipazione che daremo al momento insieme a Federico, che è in diretta telefonica con noi. Buongiorno e bentornato, Federico. Buongiorno, grazie a voi. Ma ciao, grazie a te, ben trovato, sempre un piacere. Ci siamo già sentiti per altre anticipazioni e quindi insieme a Federico avremo modo di conoscere una stella tra le stelle. Fra l'altro ho letto e sapevo che tu hai collaborato insieme alla grande astrofisica e non solo Margherita Hack. Oltretutto ne sei stato protagonista e ovviamente ne è arrivata una narrazione. Come sarà presentata questa figura a San Giorgio di Piano per domani? Ma allora insomma, io ho avuto questo privilegio, no? È stato quello di passare del tempo, tanto tempo insieme a Margherita, e questo tanto tempo mi ha permesso di raccogliere tantissimo materiale. Lo scorso anno, in occasione del centesimo anniversario della sua nascita, quest'anno invece è il decimo della morte, e ho fatto questo libro intitolato Nata in via delle 100 stelle, da cui abbiamo tratto un reading musicale, una narrazione musicale. Io tenterò di raccontare 100 anni di Margherita, questo viaggio nel tempo e nello spazio, intervallato da musica. C'è con me una cantautrice milanese che si chiama Marchica, insieme a Giovanni Ghioldi alla chitarra, che hanno preparato una sorta di playlist dedicata alle stelle. Si parte proprio con Stelle di Guccini, e hanno scritto un paio di canzoni originali proprio per lo spettacolo. Abbiamo riarrangiato un pezzo che Margherita aveva scritto per Sanremo, quindi insomma c'è anche delle chicche, e sarà un viaggio insieme a Margherita, accompagnato da immagini che io ho trovato nel suo archivio personale, rielaborate da un artista. Insomma, cerchiamo di immergerci proprio in questa vita, che poi è una vita composta da tantissime vite, che è la bellezza di Margherita. Certo, oltretutto la musica è protagonista ed è molto importante. Ho letto, oppure ho una svista, che c'è anche la partecipazione, o ne sono coinvolti anche musicisti dei Di Rotta su Cuba? Sì, Nicoletta Marchica appunto è stata cantante, esatto, per diversi anni di Diretta su Cuba, esatto, quindi insomma l'abbiamo trovata lì, è una bellissima voce, sì, una bellissima presenza, quindi porta luce su quel palco ed è un'ottima compagna di viaggio. Poi sai, ci tengo a dirlo che insomma avete citato Agora, che è una rassegna a cui io sono particolarmente affezionato, perché io poi sono uomo di pianura, nel senso che Agora, io sono di Pieve di Cento, dove appunto Agora, cioè, c'è un piccolo teatro dove Agora fa i suoi spettacoli, quindi per me è un grande ritorno a casa e sono molto emozionato anche. Sì. Sento la... Su questa è un aspetto che ci unisce, tra l'altro. Io sono originario di Cade Fabbri, per cui vicino Minervio. Sono i nostri teatri quelli, no? È per quello anche lo stesso motivo per cui da quando è nata Agora è seguita dal Breakfast Club. L'ho voluta fortemente in tutte le sue edizioni, perché l'importanza della nostra pianura, ricordo, non deve essere assolutamente trascurata, e dare un valore aggiunto in un paese con la rappresentazione teatrale, la sua stagione, è qualcosa di fondamentale. No, ma quello che fa Agora è Agora adesso, Tracce prima, no? Comunque porti cultura, sì. E che cultura, perché adesso al di là del mio reading, insomma, io ho visto spettacoli bellissimi in questi anni, portati in provincia, portati nelle piccole piazze, ed è veramente un come diceva Margherita, no? Cioè, fare democrazia passa dalla conoscenza, passa dalla cultura, e quello è veramente un atto politico, portare la cultura nei piccoli centri, quindi bravissimi loro, assolutamente. Momento di divagazione, a Pieve di Cento si mangia divinamente. Comunque, ok, va bene, questo certo, è un aspetto che io non trascuro mai. E quindi, poi un altro piccolo aspetto, insomma, Margherita Hack, hai lavorato, conosciuto così, è come l'abbiamo conosciuta anche noi? Direi di sì, è così una domanda un po' scontata, però dalla tua voce la risposta sicuramente è più incisiva. No, ma sai che oltre a incisiva, la mia risposta è che ovviamente sì, ma è anche la risposta a perché Margherita è diventata donna così popolare e donna così pop, al di là dei confini scientifici, al di là del mondo scientifico, no? Era un'ottima scienziata, una bravissima ricercatrice, però insomma la sua fama ha travalicato questo. Ed era proprio la coerenza la sua cifra, cioè tra quello che pensava, quello che diceva e quello che faceva in tutto l'arco della sua vita, da quando era bambina a quando se n'è andata, insomma le tre cose hanno sempre coinciso. Quindi questa coerenza è stata la sua grammatica esistenziale. E quindi sì, era proprio come la vedevamo, era senza maschere, era spontanea, era semplice, era naturale, comunicativa, era... certo. Sì, comunicativa per natura, no? Perché aveva questa simpatia innata, questo vocabolario anche colorito che l'aiutava a sdrammatizzare le situazioni, però nello stesso tempo era anche molto rigorosa, molto attenta alle parole da usare. Insomma, la scienza, vuole questo, no? Vuole quello, non ti permette scappatoie, no? Aggiungo anche, se non vado errato, che lei è stato un atleta. Anche lo sport vuole disciplina se fatto correttamente, con applicazione, e questo diventa disciplina, sacrificio, l'essere competitivi, certo. Tutte queste cose che lei ha dimostrato come scienziata, le ha apprese, le ha vissute nei suoi anni da atleta. È stata anche nel programma nazionale, sì. Doveva partecipare alle Olimpiadi, quell'anno lì le Olimpiadi poi furono cancellate per lo scoppio della guerra mondiale, quindi insomma parliamo di un atleta ad alti livelli. Certo, allora, Gocce di Stelle, ho proposto un brano musicale, a me piacciono tantissimo i Di Rotta su Cuba, abbiamo parlato di una voce meravigliosa, La goccia che canta è lo stacco musicale, puoi restare un pochettino qua con sono noi? Qua. Okay. Sono qua, allora sono qua. Ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo con Federico Taddia per sabato 21 ottobre, ovviamente 2023, Sala Giulietta Masina in via Melloni a San Giorgio di Piano, Margherita Hack, Stella tra le stelle, a tra poco. Quando un fiore dipinto odore non ha, una lucciola a fuoco non è mai, è come se cercassi dentro te. La goccia che canta, la sabbia nei sandali blu. Ma l'amore cos'è? Non chiederlo a me, io so bene insieme a te. L'acqua di fiume tutto verso di te mi porterà. Oggi una playlist particolarmente romantica, brani anche di musica italiana e Di Rotta su Cuba, il loro disco del 2005 intitolato semplicemente Jazz, La goccia che canta, ma direi la stella che canta in questo caso. Federico Taddia, conduttore, autore, giornalista, divulgatore scientifico, alle prese in questo caso con un lavoro che porta a San Giorgio di Piano per la rassegna Agora, una figura veramente importante. È Margherita Hack, lo spettacolo, come ho detto, è domani alle ore 21. Federico è qui con noi, ci sei? Sì, ci sono, ecco. Grande, ecco, perfetto. Durante lo stacco musicale temo sempre o la linea che cade o tutte queste cose che sono sempre inciampi non proprio simpaticissimi. Collaborazioni, oltre che musica, reading, interpretazione, vogliamo citare anche altri aspetti legati alla stella tra le stelle di domani? Ma guarda, appunto è un racconto di una donna che ha attraversato 100 anni, è stata ventenne durante il ventennio, ha conosciuto il fascismo e l'antifascismo, però è una storia attualissima, i messaggi di Margherita sono modernissimi, era vegetariana quando nessuno lo era. È vero. Ha scelto di non avere figli in maniera consapevole col marito in un periodo storico dove, figurati, è complicato adesso per una donna dire che non vuole diventare mamma, e lei invece lo diceva molto serenamente. È una vita fatta anche di inciampi, di errori, insomma è diventata una delle più grandi astrofisiche al mondo, ma ha iniziato l'università studiando lettere. Insomma, queste cose sono messaggi fondamentali, soprattutto per le ragazze e i ragazzi di oggi, per nuove generazioni, no? Che cioè, non devi essere un predestinato, non devi essere un piccolo genio, puoi sbagliare strada, puoi cambiare strada, puoi tenerti aperta l'opzione dei bivi. E lei fu rimandata in matematica alle scuole medie, ne ha combinate tante, no? E poi il racconto di Margherita è anche un racconto di coppia, perché è la storia d'amore durata oltre 70 anni con suo marito Aldo, è bellissimo, erano complici, erano un specchio dell'altro, erano due persone fantastiche, e nello spettacolo raccontiamo la nascita di questo amore che è venuto in maniera molto divertente, in maniera anche molto casuale, e però non poteva esserci incontro più bello. Sì. Insomma, Margherita è questo, capito? È stata donna, è stata scienziata, ricercatrice, la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico, però è stata gattata, è stata militante, è stata artista, ha fatto tantissimo teatro anche lei, no? Con Ginevra Di Marco, ha portato in giro uno spettacolo bellissimo, insomma molto eclettica, amava mettersi in gioco, non faceva mai un passo indietro, amava contaminarsi, ed è modernissima, quindi il bello di Margherita. La sua forza anche nel rapporto con la spiritualità o non spiritualità, la concretezza e nello stesso tempo le stelle, hai parlato di bivi e ne ha vissuti tantissimi, pur prendendo le sue posizioni forti e coerenti. Beh, io direi che indubbiamente è una protagonista che rimane anche grazie alla stella tra le stelle di Federico Taddia e la musica che abbiamo visto e ascoltato da protagonista poc'anzi. Ribadisco, è domani alle ore 21 a San Giorgio di Piano, alla Saletta Giulietta Masina in via Melloni a San Giorgio. Io ti ringrazio tantissimo per grazie a voi per l'ospitalità, presentazione. No. Grazie, okay, ci sentiamo al prossimo spettacolo. Grazie Federico. Grazie a voi. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao. Tutti, ciao. E non finisce qui, no, oddio, il Breakfast Club sta volgendo al termine, non finisce qui perché dalle 11.30 alle 12.30 abbiamo Jazz Live con Alfredo Pasquali e la presentazione del Bologna Jazz Festival, anche questa edizione veramente molto corposa, densa di talenti e grande musica, e procediamo con la presentazione del nostro amato Ferrara, il Torione Jazz Club. Presentazione per gli appuntamenti nel weekend, ovviamente, che parte già da questa sera. Chi riconosce questo standard? 333-180-9494. Barabarabarabaraba. una So What di Miles Davis da Kind of Blue, interpretata da Monty Alexander. Bravo, già è arrivata la risposta. Brava Sabina, ti aspetto anche per il Jazz Live, quindi è dalle 11.30. Mattiniere, vi aspetto a colazione con i magazine. Invece, nella settimana dopo il weekend che ci attende, già da lunedì, ultima settimana completa per il mese di ottobre. Vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione. Vi lascio in compagnia degli United Future Organization, pubblicità, poi Edipeo Enciclopedico, Liberi Dentro, rassegna stampa, la programmazione mattutina che arriverà alle 12.30 con il Jazz Live. Non dimentico, un grande abbraccio e un buonissimo weekend. Ciao a tutte, ciao a tutti, servo vostro da William Piana. Ciao, buona mattinata. C'est pas un hasard si tard. Pas un hasard, j'y suis en train de voir. Le DJ fait tourner au mort. Je suis bien, je me sers moi-même au bas. Ça fait des heures qu'on est assis, elle dans son coin et moi aussi. On aurait bien voulu se parler, histoire de savoir qui on est. L'amour en toute sécurité, égoïsme en forme de miroir, où l'amour se fait sans se voir. Cette fille, c'est une histoire de fou. Elle a débarqué tout à coup, avec ses deux mecs dégarnis. Je crois qu'elle choisit pas ses amis. Trois vodka, les mecs piquent du nez. DJ Neil, la piste est vidée. Ça a pas l'air de la déranger. Son plus d'oseille a lâché. L'amour en club passait la porte. Ses faux espoirs et d'être morte. Être séparé, être ensemble, amour sans fluide, carte de membre. Elle, Paris, elle connaît très bien la rue, les princes, les baratins, les manières chic de s'ennuyer, de se tenir droit et de s'habiller. On se résiste avec élégance, on boit, on filme, on se dit quelle chance. On n'a même pas besoin de danser, on est ensemble sans se parler.